dai lo sai, non ti penso più, non sei più niente, adesso vattene da me. Adesso vai, non cercarmi più, questo silenzio vive dentro di noi. Non ho nessuna intenzione di ricascarci ancora. Non mi interessa con chi sei, non mi interessa se stai sola. Io sto meglio perché da quando non ci sei te non ho più paranoia, né tristezza né gioia. La mia mente non torni, sono passati quei giorni dove nel cuore tornavi ma piano piano sparivi. Non tornavi per me, ma tornavi perché era una strana abitudine dove ho scritto la fine. Tu continuavi a farla scema e adesso eccoci qua. Io mi diverto, gioco un po', tu sempre scema, che novità. E le tue amiche che ci provano con me sono le più stupide, forse più stupide di te. Io che ci gioco e dopo un po' le mando di nuovo da te. Tu che ci scherzi ma non sai cosa mi dicono di te. Sono loro che tornano da me, son felici che non funziona tra me e te. Dai lo sai, non ti penso più, non sei più niente, adesso vattene da me. Vai, non cercarmi più, questo silenzio vive dentro di noi. Ogni ragazza con cui sto mi scade dopo pochi giorni. Ogni canzone paranoia entra in testa e te la sogni. Dimmi come fai a cantar così, te sensazionale, matti non ti esaltare. Sembrava ieri quando ho messo la mia voce in un CD. Tutti dicevano che non sarei mai uscito di lì. E infatti dove sei? Mica ci sei in TV. Perché se sei in TV allora sei forte. In quattro anni ho messo via la vita mia solo perché avevo in testa questa musica che parlava di te. Adesso più non c'è quest'amore che faceva credere in qualcosa che non c'è. Sei troppo avanti e per fortuna che ci sei, amore mio, e da domani sarai tu per me il mio nuovo dio. Ma come cazzo stai, Matti, amore mio? C'è sempre guerra, fanculo la pace, che la pace sia con Dio. Dai lo sai,